Vecini con bellissimo eco, la tua modulazione non sgarra di una virgola, sempre perfettamente chiaro e funzionale. Sicuramente sei qua in zona, mi stai levando molto bene. No, mi guarda, Marco Lombardo, entrando nella 131. No, c'è un antennino piccolino, sarà 40 centimetri di antenna. Oh, vai più che bene. Poi sfortunatamente dopo che fai il bivio per Ardara, da lì scompari. E questa non è la mia stazione, capito? E questa qui c'è la macchina del mio collega, un giorno c'è la mia, un giorno c'è la sua, la mia c'è l'antenna più lunga, dai, c'ho Turbo 2001, ma qua c'è questo antennino qua, però e si fa sentire lo stesso. Sì, Abuglia, guarda, se sei in movimento, stranamente l'ago non si muove. È positivo, positivo, movimento, vivi usiniti qua, da parte mia, dopo. Già va bene, comunque non è tuo l'apparato, no, comunque va veramente bene, così è un Midland. Era il mio, è stato venduto, capito? No, questo è l'S9, capito? Ehi, già si fa sentire, ma lo sanno. S9, che si fa sentire, poverino. Tu hai caricato e sei già in viaggio alla fine. Positivo. Adesso vediamo direzione Cagliari, che tempo fa. Non hai visto, no, prima di partire, non ti hai fatto una piccola ricerca, non te ne frega niente. Intanto non lo fai, devi andare lo stesso, capito? Qua dobbiamo andare. Comunque oggi sì, poi domani al riposo, anche domani ti tocca fare questo bel giretto. No, domani al riposo, si riprende lunedì sera. E almeno quello, dai. Dai, tra una cosa e l'altra, questo viaggio fai andata e ritorno, poi hai finito alla fine. Positivo, domani mattina alle 7:30 finisco. Tra partire adesso e rientrare, alle 7 del mattino. No, dai, arriverò qua, ritorno alle 4:30, dai, 5. Però devo aspettare la cooperativa quando arrivo alle 7:30. Dio mio. Ehi, dunque, giustamente, te la prendi con molta calma, dai. Poi sperando che durante il viaggio, dopo diciamo che ti allontani dal territorio di Sassari, ci sia qualcuno che bene o male chiami e ti risponda durante il viaggio, sì, oppure rimane zitto anche l'apparato in quella zona. Guarda, qui sta già piovendo. Ehi, ce n'è di gente, immagino che adesso alle 7 ha sbarcato la nave e ci sono tutti i corrieri verso Cagliari, capito? Ristanno Cagliari. Ma dunque, bene o male, diciamo, non rimane da solo, la compagnia ce l'hai in modo da tenerti sveglio. Sì, non c'è problema, qua ci abbiamo tutto, compagnia, televisore, baracchino, radio, c'è tutto. E vabbè, quello sì, radio sì, per carità, quello già non manca, mentre ho però fatto dell'apparato, ecco, in modo che durante il lavoro, diciamo durante il viaggio, potevi scambiare due chiacchiere, dai, e tenerti un po' di compagnia. No, quello sì, poi ci sono tutti i miei colleghi, ci sono quelli di Bartolini, Esecco, TSDA, ce ne sono, altre macchine, i frigoriferi che viaggiano di notte, compagnia ce n'è, non ti preoccupare, non rimaniamo da soli. È buono, dai, è una cosa positiva, giustamente è bene, dopo Ardara, noi rimaniamo qua rinchiusi in questa zona e dunque ci perdi. No, proprio per quello, ce n'è di compagnia, ce n'è. E io c'ho già quel REM, appena inizia a piovere guai, tu? Anche tu hai disturbi. E sul fondo la cresta finale, perché quando piove, ovviamente salvo, non bisogna avere e tenere sotto controllo. Sentito lo più. Ehi, a Gianni, aspetta un attimino che controllo la situazione qua. Sì, già ci siamo, siamo ancora nella norma. Avanti già, ti copio forte e chiaro. Ho detto, fatti dire da Domenico dove mi ha sentito. Mi stava chiedendo il doppio numero, dove l'hai sentito tu a Gianni mentre lavoravi? Nome? Attento Domenico. No, sicuramente, sta facendo qualcosa. Mi copi già. Ah, scusa Domenico, mi ha chiesto già il doppio room, a vedere sin dove l'hai sentito. Perfettamente, pagato me 60 a costa adesso. 60? No, io l'ho pagata 45, da Fusaro l'avevo presa, in via 4 novembre, l'ho trovata lì. Ce la stanno dando così, capito? Dio mio, 60 euro, e andiamo bene. Per 60 euro mi prendo quella che ho nel tetto, la Energy Mezz'onda, quel prezzo lì. Correnne a Santiago 7 adesso. Questo, non è 5 ottavi la tua? No, la mia è mezz'onda. Mezz'onda senza radiali. Invece quello di Antonino Pompone è la 5 ottavi. Sempre la Energy, però 5 ottavi, 3 radiali. La mia è mezz'onda senza radiali. Va bene. A voi, a qualche giorno mi posso lamentare, già fa il suo lavoro, a voi, sono contentissimo, va più che bene, resiste al vento, mi ha già dato delle buone soddisfazioni, a voi. Quindi cosa ti nascondo? Comunque guarda, se tu vuoi cambiare, vuoi andare sulla Tarragona, la PLC Minox, quella piccola. Si è risolto il problema. Vedi dove c'è, senti qualcuno che gli interessa, è qua, guarda, sono vicino, non c'è nessun problema, dopo lo scontrino ho anche lo scontrino, lo cerco, guardo la documentazione qua dei CB, che bene o male conservo tutto, e si prende anche lo scontrino. Diceva la stazione, dunque non la butto nel garage, non la parte all'altra, sempre a casa, no, non c'è nessun problema. Certo, io l'ho fatta con le vendite della PLC Minox, la mia. Ho capito, dunque ti sei trovato bene. Dio mio quanto sta piovendo, c'è un QRM impressionante, tu non ce l'hai già. Negativo, zero QRM. No, che mi bocchette. Ogni volta che inizia a piovere è strano. E uno che sta piovendo ha tutti i disturbi allucinanti. Ma qua c'è noi lo splanca, ha capito che agisce. Ma ecco, adesso se ne è andato, se mi non ho pulito la frequenza. Adesso c'ho zero QRM. Adesso come segnale, come ti sta arrivando? Sì, Santiago 7, la radio 5 a palla, bella. Sta pagata. Infatti, come la legge, la terra leggera, lì. La prossima volta mi sa che mi pongo una leggera, via. Ma fine sì, mi, ecco, ho iniziato il QRM, adesso c'è la Santiago 5. Ma visto una bella, della Ringo, costa 90 euro, che c'ha un bel radiale. Quella lì è una 5 ottavi, c'ha 7 dB e mezzo di guadagno. Non è poco. La stella che mi sta chiamando la mia signora. Scusatemi, Gianni e Domì, la mia signora ha chiamato che è pronto a Magnà. Ci sentiamo più tardi, se coincidi, se ne è voglia già. E va bene, Antonio, là, tanto sto rientrando io, là. Ci sentiamo. Ciao Domì, se mi occupi ancora. Buon lavoro e ci sentiamo alle prossime. Non mi senti più Domenico. Va bene già, ma più tardi. Appetito anche a te. Hola 5 Brecco. Attenzione Mandello, ci si. Sì. Quindi. Sono qua. E comunque Domenica te l'hanno detto, sì. Sì, me l'hanno detto. Domani siamo a cosa io. L'altro di manco ne usi, lo so. Dobbiamo fare la piazza delle 4 telecamere. E sono a cenare lì. Mi prende da come mi divise domenica mangiare. Se sono stato violato, ma così vado. Se no non so neanche come diventare. Antonio Manconi, sì. Che quello che ha dal negozio. Ah, non è un negozio. Era il presidente dell'ALT. Aspetta, il figlio c'hanno un'agenzia di assicurazioni per l'auto e moto, capito? Di quello dopo? No, un'auto e moto va male, perché altro lui è appassionato di roba antica. C'è l'epoca roba appesa, dei ferri vecchi, cose del genere, sta per i fascisti, in epoca ero quasi bene con me, tipo rimane in capo sopra. Poi quando sali lì comincia a tagliare salsiccia, prosciutto, tirar vino, eccetera, eccetera, capito? Se sono conto mica ci serve qualche pesce a quadrato. Ogni giorno mi cade il bozzo. Questo con che cuoce? La cellula, se sai che è un impegno che cuoce. Dipende da trovare dentro, perché lui è fatto così. Lui, se noi andiamo di là, è capace che ci tenga a cena, e cosa del genere. Siccome cioè, non guido io, guida un altro, quindi cosa devo fare? E automaticamente, forse vediamo un po', domani sera, cosa ne esce fuori. Ma quindi tu farai la guppa? Io posso bere, lui no, in teoria, capito? Quindi bevi da una parte, bevi dall'altra, c'è vino buono, poi c'è salsiccia, di tutto c'è. Che ti porto già, così ti diverti qualche giorno. Io ho regalato anche due baracchini, ho regalato a quello. È appassionato anche di queste cose antiche così. Fidati. E vieni a casa sua, guarda, ti... è adibito di quello che ci ha appeso. A parte le salsicce, formaggi, fa tutto lui lì. C'è una bella, una campagna bella grande, c'è cavalli, asini, galline, piccioni, di tutto va. E quindi già sta bene. E io pure sta bene, avresti voluto tu stipendio che c'è lui per 5 anni di lavoro che ha fatto al latte come presidente. Gli assegnerei due stipendi al mese. È un dipendente regionale dell'Alleanza Nazionale, capito? Quindi ha fatto il coso, come si dice, l'ha fatto entrare in partito di affari presidente, dopodiché è andato in pensione, ha fatto bene, non è vecchio, c'è una no, 5 anni, o di più. È stato fortunato, è stato, non ho letto, quindi capito, quel periodo di quando c'era Forza Italia e Alleanza Nazionale, hanno fatto direttore dell'ASPEC, e quindi si pigliava, ha fatto stipendio regionale, più anche quello della carica come la presidente dell'ASPEC. Dopodiché lì ha finito tutto, è stato mi sembra 5 anni quello che è andato direttamente in pensione, non è voluto più sapere né di politica né di un tubo. È arrivato la pensione e ha detto va a far culo a tutti e buonanotte. Non ti conveniva, va. Sì, io non credo, il figlio è sistemato, c'ha il lavoro, la figlia lo stesso, la moglie lavora lo stesso, quindi sta benissimo, non è fatto niente di nessuno. Si trattiene in campagna, si diverte, zappa, c'ha i maglialetti, c'ha la gallinella, c'ha un po' gli agnelli, quello che è, e si diverte. Passa l'ora così passa. Capito? Non si dice cosa fa in casa, a fare da un circolo all'altro, non saranno. Lui quando rientra verso la polizia, va a a casa, cena e tranquilla, a meno che non ci rientra, ma lì c'è la casa. Con tutto dentro, bagno, c'è un camionetto che ci sta e tutto il resto, tutto intero. Ma un che ci sono c'è a casa? È passata una. Si sente, sì. Ah, sì, ti sto salendo. Mi sa che non si vede nessuno, mi ha detto una tallina, vai. Si sente che non si vede nessuno, ma anche nascosto, va. E continuo a fare quello che stavo facendo. Ci sentiamo, va, buonanotte, senza qualcuno già è tranquillo. D'accordo, ok, va. Ci sentiamo. Dunque, che rete, sì.